9.58 credo del 19 agosto, ormai io e la Focus siamo un tutt'uno, praticamente è una mia protesi a rotelle, la uso anche per gli spostamenti più elementari, un po' come Steve Martin in Pazzi a Beverly Hills. Sempre più incrostata, più degradata questa macchina, attraversa un mondo improponibile, del quale peraltro fa parte. E anche oggi vado a giustificare la mia inutilità, questa è diventata la vera grande sfida dell'impiegato moderno, direi dell'uomo moderno, dato che i potenti della terra a tutti i livelli, fino al capo ufficio, non sono impegnati a produrre, ma a giustificare il loro recinto di potere, gli impiegati si adoperano anche loro in tal senso. Mi ha colpito molto questo strano rapporto che ho con questo nuovo capo, che è una donna piuttosto in gamba, bisogna dirlo, però una donna completamente ormai assuefatta a questa regola, quella secondo cui, dato che nessuno ti premierà mai in base a quanto produci, conviene agitarsi, e quindi lei si agita. Io ho sempre lavorato in agenzia e uno dei vantaggi di lavorare in agenzia è che alla fine dell'anno viene giudicato sulla base del profitto che il tuo team porta all'azienda, sui clienti che riesci a gestire e poi c'è anche la gratificazione, io lavoravo in un'agenzia di comunicazione, dei documenti, cioè alla fine comunque si produce qualcosa che viene pubblicata, oppure esce magari un articolo positivo sul cliente, quello è un risultato tangibile, quindi per me è stata un po' una rivoluzione culturale andare in un mondo dove sì, si lavora sempre su documenti che poi però anche se non vengono pubblicati scopro che non è quello l'obiettivo è essersi agitati a lungo in alcune stanze con alcuni personaggi potenti parlando di questa attività. Siamo andati avanti per esempio ultimamente con tutta una serie di documenti da pubblicare sul portale aziendale e io sentivo con una certa frustrazione il fatto che non si riusciva mai a ottenere l'approvazione e a un certo punto è arrivata la pausa estiva, io devo dire ero sempre più in tensione perché questa cosa non veniva pubblicata e con mia grande sorpresa proprio l'ultimo giorno prima di andare in ferie il mio capo mi ha detto vabbè non importa, è andata così, l'importante era rivendicare il proprio ruolo, giustificare la propria inutilità.